Blue Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, buonasera a tutti, 22.04 e 57 minuti primi e cominciamo una nuova puntata di Rock Wave con Michele, mitico Michele Tosoni in regia, Agostino che seguirà le fotografie, Roberto Baldi che ha curato l'organizzazione delle telecamere e Alberto Prisco che ha curato l'organizzazione del concerto di Roberta Di Lorenzo. Buonasera Roberta. Ciao, buonasera. Hai fatto un buon viaggio? Ho fatto un buon viaggio, ho visto Venezia questa mattina. Quindi per me è una giornata straordinaria. Metà perché è piovuto, eh? È piovuto, sì, quindi c'è stato questo via vai di ombrelli, ma valeva la pena. Ma Venezia va bene anche con l'ombrello, secondo me. Sì, direi proprio di sì. Non l'avevi mai vista? A costo di mettermici dentro e navigare nell'ombrello, dovevo assolutamente vederla. E poi 30 chilometri da Padova, sì, è vicinissimo. Più o meno. È la prima volta che vedi Venezia? È la prima volta, sì. Anche Padova, eh? Anche Padova. Sì. Ieri ero a Verona, quindi proprio sto facendo un po' di Veneto. Veneto. Abbiamo anche il nostro manager qui vicino, ciao. Riccardo. Riccardo, benissimo. E quindi sei venuto a trovarci, siamo molto contenti che tu l'abbia fatto, perché dovevi presentare il tuo album, L'Occhio della Luna, il tuo primo album, il disco di esordio, come si chiama? Si chiama L'Occhio della Luna, e tu mi hai detto che l'hai ascoltato. Sì, almeno una trentina di volte, dicevo al manager qua vicino. Ti sei fatto male? No, mi sono fatto bene, è un bel disco. Quando, se uno lo sente tanto, vuol dire che lo ama, lo apprezza. Sì. E poi, guarda, io addirittura c'è stato un periodo dopo la registrazione, non ne volevo più sapere. Eri stanca. Esatto, perché poi lo vivi da dentro, quindi hai in mente tutte le take fatte, quelle che non andavano. E adesso lo sto riscoprendo anch'io, quindi non dico che arrivo a 30 ascolti, però insomma c'è un approccio nuovo e devo dire di essere soddisfatta. Come nasce Roberta Di Lorenzo come cantautrice? Come nasce il progetto tuo? Ma il progetto cantautorale in questo caso è legato alla figura di Eugenio Finardi. Sì, che è il tuo produttore. Che è il mio produttore artistico, ha curato nel dettaglio tutto il lavoro e che... con il quale c'è stato quella conoscenza risale al 2007. Quindi sono passati quel tempo necessario per poi realizzare questo album. E l'aneddoto è legato a un'audizione. Lui cercava una corista, io mi presentai e mi scelse non come corista perché ero adatta ad altre cose, altre situazioni. Si appassionò ai miei testi, infatti, alle mie canzoni, e da qui selezionammo alcune, infatti in questo album ce ne sono 13, che sono alcune di quelle che aveva, in effetti avevo nel cassetto. Cioè, è stato colpito sulla via di Damasco dai tuoi testi, praticamente. Sì, dai testi, da un mondo musicale che forse è riconosciuto, e infatti è stato piacevole riscontrare come anche nella fase di arrangiamento ci fosse questa linea in comune, questa scelta di vestizione del pezzo proprio. Cosa vuol dire produttore artistico in questo caso? Significa seguire fiduciosamente e con attenzione il lavoro. Lui è una persona che ha assolutamente le idee chiare, ha avuto le idee molto chiare al riguardo, quindi il punto in comune era realizzare un album diario, piuttosto intimistico, in cui raccontare di me, ma non solo a livello biografico, piuttosto un diario sul mondo femminile. Infatti poi la scelta della copertina, che è stata curata, bellissima copertina, che è stata curata dalla compagna di Eugenio. Sì, da Patrizia Convertino, lo studio Convertino di Milano ha curato l'immagine. Facciamo vedere un secondo la copertina. Adesso mi dice Agostino se va bene così? Ok, benissimo, abbiamo fatto vedere la copertina. Sì, perché vale la pena, è molto bella ed è evocativa proprio di un mondo che tenevo a descrivere. C'è la luna, quindi rappresenta proprio la simbologia, no? Lunatica, umorale della donna. E poi Eugenio è stato colpito, dopo forse lo ascolteremo, da un pezzo soprattutto. Lui ha scritto nella presentazione del disco: proprio quando sembra che la canzone d'autore abbia ormai affrontato ogni argomento, esplorato ogni anfratto dell'animo umano, arriva una canzone che apre nuove prospettive. La sua canzone si chiama Circe, ma la citeremo dopo, però è stato colpito da questo pezzo praticamente. Beh, Circe è una figura di donna, è un nome che conosciamo benissimo, lo possiamo collocare in un ambito certo, chiaro. E chiaramente rappresenta la sofferenza femminile della mancanza del complemento maschile. o comunque questa parola che sembra antica, ma in realtà incomunicabilità tra i diversi, tra l'uomo e la donna, l'uomo e spesso la donna. C'è, e Circe rappresenta magicamente questa, questo vuoto. Infatti io spesso parlo di silenzio che certo. C'è, no, tra le conversazioni tra uomini e donne, che spesso non sono compatibili. E in effetti spesso abbiamo affrontato io e Eugenio argomenti riguardo la diversità proprio di approcciarsi al mondo maschile e femminile, quanto sia diversa, ma proprio anche nella struttura biologica siamo diversi, certo. Per cui quanto siamo attratti l'uno dall'altro per la diversità, anche ci spaventiamo di tale diversità. Quindi è un argomento che richiedeva attenzione, ho voluto focalizzarlo, certo. Lì. Poi una cosa interessante che è incisa per l'etichetta proprio di genio, la EF. Sì. Distribuita chiaramente dalla Eden, mi pare, ma EF è l'etichetta proprio di Eugenio, no? Sì, sì, infatti. Quindi la produzione a 360 gradi, praticamente. Sì. Ok, allora apriamo la finestra, come sempre, e cominciamo a sentire il primo pezzo. Una cosa da sottolineare che abbiamo anche una redazione al femminile, la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che ci seguono. Ah, bene. Quindi fa sono piacere. Sempre presenti. Sempre bello. Okay, apriamo la finestra con il primo pezzo, mi pare, della scaletta. Hai scelto il pezzo, sì, numero 1, che tra l'altro è l'album, è la canzone che apre l'album, che secondo me è anche non so, l'ho sentito, non so se mi sono permesso di dirlo, un singolo potenziale. Sì, adesso è molto accattivante singolo, come pezzo. Sì, i singoli non esistono, sì, più, sì, infatti, però un pezzo accattivante che potrebbe portare avanti il discorso. Sì, a prescindere dalla tematica. Sì, a prescindere, no? Dalla tematica, io parlo musicalmente parlando. A livello sonoro, sì, trovi che sia, sì, un potenziale molto singolo. Molto buono. Sì, tra l'altro è piacevole questo, anche perché c'è la voce di Eugenio nel finale. Esattamente. Che mi fa da sostegno morale. Morale anche, okay. E vocale. Rock Wave, l'onda del rock. Ispirarmi, anima. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ecco, parliamo mentre come è stato costruito questo pezzo e cosa ci ha messo Roberta e cosa ci ha messo Eugenio praticamente. Beh, guarda, la lavorazione dei brani è stata assolutamente... l'idea era... si sposava la mia idea con la sua. Quindi io avevo questi testi e queste melodie già pronte. E il lavoro importante e anche quello più complicato su cui puntavamo era quello di vestirli in un certo modo. Esatto, quindi l'arrangiamento, vestirli. Tu sai che cambia il pezzo. Certamente. Nella struttura, no, però ne dà un mondo piuttosto che un altro. Quindi la scelta di usare strumenti classici o utilizzare, quindi c'è il quartetto d'archi ed Odea che ha collaborato nell'album, o di utilizzare addirittura strumenti come chitarre elettriche in modo classico, quindi ecco, che sì. Entrano così come fosse musica barocca. A un certo punto c'è questa esplosione di chitarre elettriche nel pezzo, che in effetti ha una sua filosofia, perché il brano che si apre così in maniera docile, con questi campanellini innocui, innocenti all'inizio, e poi si trasforma in una burrasca, in una tempesta di foglie, maree, che in effetti è il senso della canzone. Quindi mai come in questo caso si sposa perfettamente la musica con il testo, con quello che poi vuole comunicare, cioè la fine di un amore. Esattamente. Quindi la rabbia anche un po' finale. Certo, e tu hai detto una cosa giusta mentre il pezzo andava, che Eugenio ti ha dato una piena libertà di fare come volevi. Cioè, produttore artistico sì, però non ha messo nessun paletto, se non i paletti per dare un certo riferimento alle cose. Sì, perché il direttore artistico in effetti è un direttore d'orchestra, è un direttore di idee, anche perché incanala nella giusta strada l'idea iniziale, quindi sarebbe stato assolutamente innaturale portare i brani, la mia vocalità anche, piegarla a una strada che non era assolutamente appropriata e incoerente. Per cui la libertà che Eugenio mi ha dato in effetti ha radici nell'intuizione sua, personale, sì, di aver capito quello che era il potenziale dei brani. Era il potenziale di Roberta Di Lorenzo, sì, anche qui. Sì, i brani di Roberta, sì, Di Lorenzo. Chiaramente. Quindi il potenziale. Quindi il gioco degli incassi, il gioco degli arrangiamenti che lui ha fatto, sì, però... L'ha fatto su una tua indicazione praticamente. Sì, su misura. Su misura, su di te, su come tua un misura buon sarto musicale. Riesce, guardando la fisicità di una figura, a capire se poi il bustino è va il bene caso oppure di metterlo o no. E soprattutto confrontandosi costantemente con me. Mai è stato facciamo questo, deciso questo. Non è stata una decisione da solo, no, cioè no, ha parlato con te. Assolutamente, proprio il classico direttore artistico in questo senso. Altrimenti sarebbe stato un tiranno. Esattamente, però qualche volta capita che il produttore artistico o il produttore, lui mi può dire, Riccardo, puoi dire qualcosa anche te se vuoi, il microfono là vicino, ha quella, non è che è la tendenza negativa, però ha la tendenza a fare, cioè quando una persona è emergente, come te, se un artista emergente alla prima prova, tende a dare una via lui, sì, a non dare la possibilità all'altro, all'artista, di dire le sue cose. Tu dici il rischio potrebbe essere quello di riversare le proprie idee o le proprie, certo, non so, fantasie su un'artista. Un'immagine esattamente, questo che è l'artista. Può capitare. Può capitare, ma non trovo. Non è il caso di non Eugenio. Non è il caso, ma letto in chiave positiva non è neanche così negativo, perché sì, trovi terreno dove poterlo fare, hai la concessione perché certo, questa certo cosa possa essere... E poi è vero, lì c'è scritto Roberta Di Lorenzo, L'occhio della luna, c'è il mio nome, i testi, musiche di Roberta Di Lorenzo, ma non dimentichiamo, io non lo dimentico mai, che in effetti questo è un lavoro di squadra. Ecco. Quindi è vero sì che è il mio prodotto, ma è così bello anche perché c'è ci sono una stati mano gli altri importante. Certo, dopo citiamo i musicisti che ci sono. Sì. Diretta rockway.alterista.org, stasera ti possono vedere e sentire, anche vedere con le telecamere, quindi è tutto in diretta, assolutamente tutto in diretta. Andiamo alla seconda traccia che abbiamo scelto dal disco, che qual è, ti ricordi? Dovrebbe essere Ai tuoi occhi. Che è la traccia numero 2 sempre? Che è la traccia... Ai tuoi occhi è la traccia numero 8. No, 8. Perfetto, la sentiamo e poi ne discutiamo un momento. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. gira e rigira questa vita come un mondo che si ferma, si volta e poi ritorna a giocare col mio cuore. Ma il mio cuore è malato e di notte non dorme, che colpa ne ho se non riesco a non pensare che ai tuoi occhi sui miei anni dosati, posati, sposati con te. Tutto è rimasto senza tempo, senza verità. Tornare qua vuole dire troppe cose, ma il mio cuore è rinchiuso e non sa più di te. Che colpa ne ho se non riesco a non pensare che ai tuoi occhi sui miei anni posati, dosati, sposati con te. Come ci stanca questo inverno, come ci inganna quando cambia il vento. Come ci inganna questo inverno, come ci stanca. E mi ritroverai in cucina a dividere il grano, a condividerlo anche con te. E per i tuoi occhi sui miei anni posati, dosati, sposati con te. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, gli archi sono meravigliosi in tutti i pezzi, e qui sono ancora più belli, se mi è consentita l'espressione. Chi li suona gli archi in questo pezzo? Allora, sono il quartetto Edodea. Adesso ricordarmi tutti i nomi del quartetto. Il quartetto Edodea. È possibile. È stato fantastico averli in studio. Un lavoro che, tra l'altro, essendo professionisti veri, hanno avuto le parti, hanno suonato, quindi immenso piacere questo. Quartetto Dodea, c'è stato un intervento che poi in un brano che poi ascolteremo, mi auguro, certo. La ballerina e il clown, è un brano che io eseguo al pianoforte e nasce solo al pianoforte, e lì c'è stata la chicca di chiamare un grande violinista, il primo violino della Scala, Pierangelo Negri, che Eugenio ha voluto ospitare, fortissimamente. E io anche poi sapendo chi fosse e soprattutto ascoltandolo, perché veramente ha dato prestigio, un tocco di prestigio al tutto. Chiaramente qui entriamo nell'ambito degli arrangiamenti, perché quando poi si tratta di archi c'è una esecuzione precisa e una scrittura, ed è stata curata da Stefano Profeta, che è un bravissimo contrabbassista che lavora con Eugenio Finardi, il suo attuale musicista nella band, nei live. Sì. Sì, benissimo, quindi c'è stato l'ausilio di questo contrabbassista che ha curato gli arrangiamenti. Sì, per gli altri brani potrei citare Paolo Gambino, che ha curato, è un pianista che ha curato nel caso di Vento di Costiera, sì, e altri. Che è un pezzo molto bello, che è il secondo pezzo mio preferito dell'album, se mi sono consentito. Perché corollario è il primo, poi subito dopo arriva Vento di Costiera. Che sono, sì, infatti anche nella scaletta sono uno dopo l'altro. Esattamente. Sono. E lui ha curato il resto degli arrangiamenti, con la supervisione di tutti noi, Eugenio Finardi e me. Ecco, una bella, è una cosa giusta, con la supervisione di tutti noi, cioè tutti quanti abbiamo messo del nostro praticamente nel pezzo, sì, nel disco. Sì, assolutamente. Questo, quindi è un lavoro di gruppo, possiamo dire. Sì, assolutamente sì. È un lavoro di gruppo, sì. Credo molto nella squadra, nella squadra dal punto di vista lavorativo trovo che ci sia molto probabilmente nella maggior parte dei casi l'idea appartiene al singolo. Certo, è vero. Ecco, poi bisogna metterla in pratica e quindi c'è necessità di trovare un riscontro. Perché spesso si perde la lucidità quando si crea o si ha un'idea, abbiamo bisogno di uno specchio fidato. E come nasce l'idea di Roberta, musicalmente parlando? Qual è lo strumento principale, il piano o la chitarra? Entrambi. Ah, entrambi. Sì, infatti io purtroppo questa sera non sono al pianoforte. Hai la chitarra, beh, però la chitarra mi protegge. E in effetti chi suona uno strumento lo fa anche un po' per proteggersi da. Certo. Nascono sia al piano che alla chitarra, spesso anche sotto la doccia o in macchina. Sì, sì, in qualsiasi momento, esatto, sì, la giornata. Sì. Infatti la realizzazione di una canzone non ha una regola precisa, può nascere il testo e poi la musica. Trovo assolutamente importante l'approccio al gioco. La chitarra è uno strumento che è perfetto per il gioco. Certo, certo. Usando una corda piuttosto che un'altra viene fuori un riff interessante che poi si utilizza successivamente e può essere un ritornello ipotetico o via qualcos'altro. Sì. Per cui sicuramente l'ascolto genera altre cose, l'humus, l'aria che respiriamo, ciò che ascoltiamo da bambini, fin da bambini fino a praticamente un'ora fa, quello che ho ascoltato un'ora fa, genera anche lo stile di un cantautore, in questo caso, ma comunque di un musicista. Tu hai, io ho letto qua nella biografia che hai studiato per molto tempo voce praticamente. Sì, io ho studiato, il mio primo approccio è stato, escludendo il pianoforte che è stato il primo amore, all'età di 8-9 anni avevo questo capriccio, volevo il piano, quindi ho iniziato così. La parte vocale, io devo dire che ho seguito diverse strade, ho potuto verificare diversi stili per poi accorgermi che per esempio la lirica non era assolutamente per me. Hai provato però. Ho provato, più che per dote, per volontà, perché quella è una vera e propria disciplina, certo, che richiede dimenticarsi quasi tutto di il mondo, e andare alla porta e fare canto lirico. Fare solo quello. Ecco, ho avuto quell'esperienza addirittura come corista. E ho lavorato in una compagnia di operette facendo anche il mimo, un'esperienza teatrale, per cui ci sono passata e poi ho avuto invece modo di prendere un'altra strada, perché la scrittura era la mia però vocazione. Ti è servito il tutto, secondo me. Assolutamente. È un grande bagaglio. Anche aprire i concerti di Eugenio Finardi, ci sono stati questi 2 anni in cui ho fatto da supporter a Eugenio Finardi. Se non conosci un po' prima l'animale palcoscenico, è vero. Io devo dire che ti divora. Certo, sono d'accordo. Più che il pubblico ti autodivori, perché è talmente difficile riuscire a controllare gesti, voce, tutto lì sopra. Soprattutto sapendo che la gente che è lì sotto non sta aspettando te, no, aspetta l'altro, però... E quindi tu sei lì che quasi a chiedere scusate, adesso devo arriva, suonare anch'io, tocca a me. Non c'è il palcoscenico con tanta gente, ma siamo in 5, adesso c'è anche questo. Perfetto. È un palcoscenico, cominciamo, sì, a suonare. Cosa ci presenti adesso per iniziare? È un brano che si intitola L'attesa. Perfetto, ok. Rock Wave, l'onda del rock. L'attesa è una corda tesa tra le mie solite aspettative, una risposta importante. Su un filo di seta ogni giorno cammino e mi stendo. Anche il mio sorriso dipende dal fatto che sto ancora aspettando. Per fortuna c'è un sole speciale, una meta importante. Sto ancora aspettando. Per fortuna c'è un viaggio da fare, e viaggiare è importante. Prendere coraggio e andare. Aspetto da sempre un passaggio di 2 occhi lucenti, da prendere al volo come stelle cadenti. Che rasserenino il cuore come una frase che vinca la noia, una risposta sospesa. Anche l'amore è fatto di attesa. Sto ancora aspettando. Per fortuna c'è un sole speciale, una meta importante. Sto ancora aspettando. Per fortuna c'è un viaggio da fare. Viaggiare è importante, prendere coraggio e andare. Come vera la mano che tocca, come la bocca che esprime passioni e parole. Per crescere dentro e dar forma e buon senso alla vita. Io sto ancora aspettando. Per fortuna c'è un sole speciale, una meta importante. Sto ancora aspettando. Per fortuna c'è un viaggio da fare, e viaggiare è importante. Prendere coraggio e andare. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua. Bell'inizio, complimenti Roberta. Un inizio quasi country rock, secondo me, vero? Sì, è vero, sì. Qui tra l'altro nel uno dei forse l'ultimo, l'unico brano in cui c'è suona questo sitar, quindi rimanda un po' atmosfere anche on the road. Sì, on the road, molto americano, tra virgolette, sempre tra virgolette. Sì, sì, assolutamente. E l'attesa è un tema, un testo anche on the road praticamente. Sì, sì, esatto, questo aspettare ma non con passività e non con arrendevolezza, ma speranzoso, quasi fosse una pulsione anche quella, una sorta di attesa che arrivi qualcosa di buono. Certo, certo. E volevo che ci fosse. Benissimo, sì, l'hai interpretato in questa maniera, live acustico qui dentro in questo momento, dal vivo davanti a un pubblico, come lo fai per dire questo pezzo? La stessa maniera o gli dai un tenore un po' più elettrico? No, c'è, sono accompagnata da musicisti, adesso inizierà, è già iniziato con una data zero il scorso mese, il tour, sì, che vede 5 elementi sul palco insieme a me. Cercando di essere fedeli all'album, però divertendoci anche a fare delle modifiche da buoni musicisti. Da percorso, quando, esatto, quando sei sul palco puoi modificare. Quindi, esatto, infatti è rimasto molto fedele all'originale, ma devo dire che ci sono più chitarre. Questa batteria incalzante, anche l'uso di mandolini, buzuki che entrano proprio per renderla un po' più a corde, sì, corde... da quella tematica è giusto che sia, esatto, così praticamente. Quindi... Quando sono accompagnata da altre chitarre è un pezzo che diverte anche un po' di più. Benissimo. E come apri di Eugenio, lo fai anche questo? Cioè quanto suoni prima del concerto di Eugenio, che ho primi concerti di Eugenio? Ora non lo faccio più. Sono stati 2 anni, parlo dell'estate 2008-2009. C'era la prima estate meno spazio, perché chiaramente, io avevo... Sì, dovevi farti le ossa, praticamente. Dovevo farmi le ossa. Esattamente. Questi 3 brani da sola o con il pianista di Eugenio, e l'anno scorso invece c'è stato uno spazio maggiore, però paradossalmente ero da sola. Ah, quindi le ossa me le ero fatte, me le dovevo proprio distruggere in quel caso. E devo dire che è stata un po' più dura, ma poi conoscendo quello che c'era stato l'anno prima, in effetti poi uno arriva anche più preparato, e ho voluto anch'io, lui mi ha dato un'altra possibilità di aprire i suoi concerti, ma chiaramente io ho voluto essere sola anche per essere io e tutti gli altri, certo. Quindi certo, per avere una tipologia differente, per capire che per avere un po' di, come si dice, di esperienza. Sì, assolutamente, questo palleggiarsi anche la chitarra e il pianoforte, che poteva servire anche a me. Certo, assolutamente. Soprattutto. Assolutamente, sì. È servito sicuramente. È servito. Volevo chiederti questo, questi pezzi che hai inciso possono essere considerati un greatest hits di tutti i pezzi che avevi inciso precedentemente oppure no? C'è stata una scelta, chiaramente, anche legata all'inizio avrei voluto evitare di introdurre brani che erano legati al mio passato. Sì. Cioè, invece poi hanno vinto loro, nel senso che era più forte di me questa esigenza, e tra l'altro ritrovandoli e riscoprendoli attuali, sono stati messi all'interno. Per esempio c'è Luna, sì, che è un brano piuttosto descrittivo, bucolico, di un ritorno a casa nostalgico, che appartiene al 99. Quindi, non è recentissimo. Sì, ci ho pensato un po' prima di metterlo insieme a un altro, che è Filomena, che appartiene al 2002. Tutti gli altri sono più recenti. Tutti allora gli altri sono più recenti. E infatti è bello per questo, perché c'è una canzone che risale a un anno fa e un'altra a 10. Quindi non solo è curioso vedere come siano differenti, perché poi crescendo anche il nostro modo di scrivere cambia. Ma fa anche tenerezza, perché io poi ricordo i momenti in cui ho scritto quello e rifarli oggi in chiave con un'altra età, certo, insomma, non c'è stata difficoltà ad arrangiare un pezzo di 10 anni fa con un pezzo che hai scritto recentemente? Luna, per esempio, è un brano che io eseguo chitarra e voce, infatti poi vorrei dopo lo sentiamo, certamente approfittarne. E gli altri, sì, Filomena era un po' diverso. Ci siamo invece divertiti a renderlo un po' più fresco, perché comunque apparteneva a un'altra età, però ben diverso da come era nato. Era nato, sì, su altre corde, mantenendo comunque la struttura, ma l'intenzione era un po' diversa. E la canzone è un po' così, un po' come il vestito, poi bisogna o lo buttiamo o lo siamo talmente affezionati che dobbiamo metterlo. Buttarlo non è mica bello, però. La canzone non si butta mai. O si lascia nel cassetto, sì, spesso volentieri si lascia nel cassetto, poi qualche momento viene fuori dal cassetto, eccetera. Sì, tra l'altro non muore proprio mai, cioè è assolutamente immortale. Cioè, noi paradossalmente siamo mortali, la canzone no. Sì, perché giustamente, come dicevi te, anche se il pezzo non piace in quel momento, fra qualche anno può piacere, può avere le cose positive, sì, si può tirare fuori, si può rimodernare, si può riarrangiare, si può ricostruire e lo puoi chiaramente incidere, lo puoi far sentire al pubblico. Mica detto che lo devi incidere, o poi far sentire al pubblico, quello sì. Assolutamente sì, è il discorso che facevamo prima. Certo. Cioè, il discorso sulle canzoni che magari molti artisti vedono come una condanna, sentono come una condanna addosso, dove appunto... l'averle scritte inevitabilmente le si associa a quell'artista che magari ha fatto tutt'altro e molto di più, è molto più bello. Hai ragione. Però è lui. Esattamente. Quello, l'artista viene identificato, sì, con quel pezzo là, ma non è vero, purtroppo non è vero. Però capita. Ricordo, questa è una cosa di molti anni fa, voi, tu sei giovane, anche il nostro manager è giovane, ma Mario Tessuto, Lisa dagli occhi blu. Mario Tessuto non ha fatto solo Lisa degli occhi blu, ne ha fatti altri, sì, pezzi, ma tutti lo ricordano per Lisa degli occhi blu. Ha fatto dei pezzi blues, ha fatto dei pezzi, sì, rock and roll, ha fatto dei pezzi beat, ma tutti ricordano per quello. È vero. Quindi è una cosa positiva, sì, perché ha venduto milioni di copie, però è negativa perché poi nel seguito tutti se lo ricordano per quello, un episodio come tanti. Sì. Ok. Sono le 22:42, possiamo mettere un altro pezzo dal disco, cosa dici? Sì, va bene. Che la traccia, vediamo se... La traccia è la numero 2. Ah, la traccia numero 2, stavolta... Il titolo è Felicità Apparente. Perfetto. Rock Wave, Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. Appena un principio di paura sottile, il titolo in alto è un capitolo di vita feroce. Alzo lo sguardo, voglio nuovi orizzonti, vedo solo stanchezza e reali bisogni. Vado oltre le cose che vedono gli occhi, oltre le cose, le mie condizioni, c'è un mondo di altre possibilità. Questo strano sentire, sentire di esplodere e poi non esplodere mai. Provo a pensare ma non viene niente, niente che possa schermare i miei sogni. Io pensavo che il mondo potesse resistere a questo vuoto. Fermare istanti, parole importanti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, benissimo, abbiamo sentito la traccia numero 2, adesso la spieghiamo un momentino. Devi fare una cosa prima. Sì, devo ringraziare Silvia da Marghera che mi ha contattata, mi ha lasciato un messaggio molto carino. Quindi ciao Silvia, grazie. Visto che Marghera hai soppassata, sì, ci sono oggi. Passata sei passata oggi, oggi. Sei andata a Venezia. Marghera, quindi so che esiste. Esattamente. purtroppo giusto, mi mancava questa parte dell'Italia. È giusto che sia così, non la conosci e adesso l'hai conosciuta. Sì. Benissimo, allora parliamo un momento della costruzione del pezzo, di questo pezzo. Felicità apparente, ricordo benissimo il momento in cui è nata in un bar, dopo aver chiuso il giornale, infatti inizia Leggo il giornale, esatto. E l'ennesima tremenda e triste notizia che ormai a cui noi siamo assolutamente abituati e anche bombardati fin troppo, e mi ha fatto riflettere sulla necessità urgente di difendere le nostre piccole cose, certo. E il mondo nostro privato, di, più che di difenderlo, di proteggerlo, che ha ancora un altro significato. E la speranza di, senza star lì come l'attesa di cui parlavamo prima, aspettando così passivamente la luna che ci cade sulla testa, ma sperare davvero che le cose possano colmarsi di bellezza, di cose certo, vere. Sì. Di bellezza, ha detto una cosa giusta. Sì, di bellezza, perché c'è un vuoto e una stanchezza generale di questa epoca. Io parlo di questa epoca perché è il tempo che vivo. Probabilmente ci sono state di peggiori, ma non penso, no. Penso che stiamo toccando abbastanza il fondo. Per cui l'idea di aggrapparsi, no, a cose che valgono veramente mi piaceva. Felicità apparente, perché poi quell'apparente appunto ci porta a interrogarci sulla felicità, se certo. È reale, se è illusoria. Abbiamo bisogno anche di quella, no? Di quella. Verissimo. Illusoria. E musicalmente come l'hai costruito il pezzo? Felicità apparente nasce al piano. C'è proprio l'intro è pianistico, certo. Poi è stata aggiunta una chitarra che ha preso il sopravvento sul, sul piano. Quasi, sì, infatti ricorda più la chitarra che il piano. È l'unico pezzo del disco che modula. Cioè, spiega in termini tecnici. Perché sono in re maggiore e a un certo punto vado in un'altra tonalità. Ah, ho capito. Adesso lo spicciola proprio. Quello era. Salgo in mi, ecco, mi maggiore. Cosa anomala, perché è una cosa che di solito non faccio, non per scelta, ma perché non trovo che sia una necessità, non la sento come necessaria questa improvvisa modulazione, se non per comunicare una cosa. Infatti in questo caso volevo comunicare proprio un esploit di emozioni legate a, spero che di trattenere istanti, parole, quindi c'era questo pensiero che andava verso l'alto e la musica andava verso l'alto. Nel resto del disco non c'è mai una modulazione, rimango sempre lì, pur modificando leggermente le sì. cose. Parlavamo prima della tua vocalità, tu hai studiato musica lirica, però hai deciso non andava per me, non avevo l'imprint, come hai detto, non avevo la maniera giusta, non potevo continuare perché non me la sentivo, insomma. Sì, perché c'è, io parlo sempre di vestiti, sarà che sono una donna, ma mi riesce facile fare queste metafore. Non beh, so è perché. Una metafora chiara, si capisce. Però subito. Non so se sei presente quando passi davanti a una vetrina e dici, certo. Ma quanto è bello quel vestito, poi lo provi e non è per te. Esatto. Rimane un bellissimo vestito, però non è adatto a te. È successo un po' questo, nel senso che io pensavo che fosse davvero una forma vocale di comunicazione per me, ma non era adatta alle mie corde, non era adatta alla mia psicologia soprattutto, e quindi ho dovuto fare una scelta. Tra l'altro poi quando l'età avanza, nel senso proprio naturale, che non sei più una bambina, no? Incominci a capire quello che vuoi e vai a prendertelo. E ti rendi conto che nel mio caso la lirica non mi avrebbe resa libera. E la mia forma di comunicazione risiede nei testi. Certo, e certo. Quindi la creazione di canzoni non aveva a che fare con quel mondo. Seppure è un mondo affascinante. che ha una tecnica totalmente a sé, a parte, un mondo a parte, che non ha quasi niente a che fare con il cantare, ma è proprio molto di più. Certo, ho capito, non è come Bocelli che è partito da, cioè che è partito dal canto, voleva fare il lirico e poi è ritornato al canto. Non invece la conosco la storia di Bocelli. Beh, non importa, lasciamola perdere la storia di Bocelli, e adesso sentiamo la tua storia un'altra volta. 22 No, ci siamo? Ci siamo, un contatto telefonico. Buonasera Eugenio, ci sei? Buonasera. Ciao Eugenio. Ciao Roberta, come va? Bene, sono qui. Hai fatto il concerto? Sono in pieno concerto, più una piacevolissima intervista con Maurizio, che vuole sapere tutto, quindi stiamo sviscerando ogni argomento che anche ti riguarda. È stato sequestrato dal KGB. Sì, sequestrata. Come stai? Molto bene, voi come state? Bene, io ho fatto questa gita padovana, ho scoperto che esiste Venezia stamattina, non l'avevo mai vista. No! Non ho mai vista Venezia. Che quindi meraviglia! Sì, bella, sotto la pioggia, però valeva la pena, direi. Beh, è ancora più romantico. Sì. Ero sola, che romanticismo auto inflitto. No, però è romantico l'ambiente, non è questione di essere con qualcuno, certo. È meglio essere da soli, così non hai cattivi ricordi. Stiamo parlando di questo disco molto bello, Eugenio, che tu hai prodotto, di Roberta Di Lorenzo. Grazie, sono molto fiero di questo lavoro, perché è un lavoro in cui ho dato il massimo e Roberta mi ha ripagato dando, credo, il suo massimo, e credo che ci darà ancora molte sorprese. Cioè sono molto contento di aver trovato un'autrice, una cantautrice vera, nel senso che, a parte alcune cosettine, proprio non c'è stato bisogno di alcun intervento da parte mia, se non quello di vestirla nel modo più adatto, ed è stato un grande piacere, anche perché è un po' il contraltare, no? Il passaggio del testimone, in un certo senso. Giusto, il passaggio del testimone. Sì, ma non sei mica vecchio, chiaramente, assolutamente. Però insomma, sono 38 anni che faccio sto lavoro e ora che comincia ad addestrare un apprendista, no? Una ragazza di bottega. Ecco, sì. Infatti stavamo parlando proprio di quello, di vestiti, di botteghe, perché sì, cioè il paragone ci sta. Ma è stato un lavoro molto artigianale, nel senso che non abbiamo fatto un ragionamento proprio di tipo industriale, ma di tipo proprio artigianale, artistico, con amore, proprio affrontando ogni pezzo per quello che era, cercando di dargli la veste migliore all'interno dei mezzi che avevamo a disposizione, e facendo anche delle scelte, avendo la libertà di fare per questo delle scelte abbastanza staccate da quella che è l'ovvio, ecco. Poi mi diceva una cosa bellissima Roberta, che tu l'hai lasciata andare, l'hai lasciata scrivere, l'hai lasciata costruire, e hai solo messo dei puntini dove dovevano essere messi e basta. Sì, io al limite non so, ho detto questo, non so, una cosa succedeva tre volte, ho detto facciamola due volte solo, oppure una cosa che succedeva due volte l'ho fatta succedere tre, ma pochi interventi a livello compositivo, non sono quasi intervenuto per niente. Poi negli arrangiamenti invece mi sono molto sbizzarrito, ma ho cercato soprattutto di sottolineare questa sua femminilità, cioè proprio il, perché credo che Roberta ci presenti un lato a volte anche inquietante, no? Che noi non conosciamo, di quello che della realtà femminile, che noi maschi non conosciamo. In realtà molte delle nostre canzoni al femminile sono state scritte da uomini, e quando poi si leggono invece quelle scritte dalle donne ci si rende conto che c'è una sensibilità diversa, e mi piaceva aiutare Roberta ad esprimerla compiutamente. Certo, mi parlava appunto Roberta di delle vostre discussioni su questo universo, su questi testi, su questo approccio, sì, praticamente. Discussioni, sì, belle, è un universo proprio, anche proprio è un discorso che è alieno a noi maschi, è un mondo di pensieri che noi troviamo a volte anche, come dire, al di là del comprensibile, no? Come le donne a volte non capiscono certe cose nostre, tipo, non so, il perché ci piace guidare in curva, in salita, in montagna ad alta velocità, per esempio. Ecco, sì, appunto. Ecco, oppure in moto, sai, inclinarsi così, perché abbiamo menti diverse, agli uomini piace la spazialità tridimensionale, alle donne i giochi verbali, e questa, ed è stato questo, come dire, questo rendersi conto della, questo accettare la differenza che poi ha reso bella la collaborazione con Roberta, credo, no? Decisamente. Poi in giro per la tua etichetta, la EF, è vero, Eugenio? EF Sound, sì. Esattamente, etichetta tua personale praticamente. Sì, quella che ho aperto per fare il blues. Esattamente. Il secondo disco, mio secondo disco come discografico ed editore, insomma, è un progetto di cui sono molto fiero, devo dire, anche se poi in realtà hanno partecipato anche in maniera molto fattiva Francesco Venuto e la Reiser e tutto il nostro management, diciamo. Certamente, però è stato un bel progetto sicuramente. Sì, è bello soprattutto perché è bello come discografico poter dare spazio a qualche cosa che magari, ecco, in una major non ne avrebbe trovato. Esatto. Poi Roberta è soddisfattissima al 100%. Sì, ho parlato già un'ora, molto. Appunto. Lasciato parlare. Ok, grazie di tutto Eugenio, di questa tua improvvisata bellissima. E qua mi chiedono quando vieni a Padova e vieni a fare un giretto qui da noi. Ma in realtà ci sono appena stato. Ecco, perfetto. Per un omaggio a Vysotsky, il compleanno di un'etichetta padovana che si chiama Velut Luna, sì, per la quale ho inciso questo progetto che ha vinto il Tenco, e spero di tornarci con lo spettacolo completo. Benissimo, benissimo, noi ti aspettiamo chiaramente. Ottimo. Grazie di tutto Eugenio. Ciao Roberto. Ciao, Eugenio. Vai a fare il secondo tempo? Sì, sì, sono già qua. Fino alla mezzanotte siamo. Perfetto. Qua. Ciao, un abbraccio. Con la band o da sola? Sono sola con la chitarra. Ah, ottimo, perfetto. Ottima compagnia. Ottimo. Va bene. La fida Taylor, sì, d'accordo. Sì, sì, la fidata. Ah, sì, un abbraccio. Eugenio, puoi ascoltare se vuoi in streaming. Ottimo, però io sto mettendo a letto mia figlia. Ah, perfetto, va bene. Noi fino a mezzanotte siamo qua. Va bene, casomai torno. Oh, perfetto, grazie, d'accordo. Eugenio. Ciao, Roberta, ciao. Ciao, ciao. Grazie a Riccardo, è stato lui il... Sì, Riccardo. Riccardo, dovevi venire, microfono Riccardo. No, mi sono allontanato. Ah, ti stai allontanato, grazie a te siamo riusciti ad incrociare Eugenio che sta mettendo a letto sua figlia, siamo riusciti proprio nel momento vita giusto. Vita vera questa. Questo è giusto. Benissimo, adesso facciamo un po' di... suoniamo un momento. Suoniamo, sì. Abbiamo parlato con Eugenio, quindi è stata una cosa molto positiva. Cosa suoniamo? Io suonerei, a questo punto la dedico a te che ti piace tanto, Vento di Costiera. Ah, bellissima, versione bellissima. Assolutamente acustica. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. L'onda del rock. Cosa mi tiene sveglia? Un silenzio che entra nelle vene, affonda, buono come il sangue per l'animale, ma non mi fa dormire. La città riposa, questa città di pietra, come tutte le altre città questa parte del pianeta. Vento di costiera, prendimi alla schiena e rendimi più fera. Cos'è già mi tiene sveglia uno sguardo che non mi assomiglia. L'occhio della luna lo sento addosso e poi una voce da dentro, vento di costiera, prendimi alla schiena e rendimi più vera. Sono nuove terre e altre civiltà, ma il nostro pensiero qui è diventato un'isola. Vento di costiera, viaggia sulle onde, disegna sul mare, rendimi serena come fosse primavera. Vento di costiera, prendimi alla schiena e rendimi più vera. Blu Radio. Il Veneto come non l'hai mai sentito. Sono le 23 e 2 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, bellissima versione acustica, chitarra e voce, quel ritornello che fa subito prendere il pezzo immediatamente, secondo me. Sì. L'intro, a me è piaciuto per quello, quell'intro immediato che mi fa subito stare là e sentirlo una, due, tre volte. È un pezzo che cambia molto. Esattamente. Della struttura. Della struttura. Sì. 23:03, adesso è l'ora della struttura dei tre dischi a portare su un'isola deserta, la nostra struttura. Sì. C'è stato l'intervallo, l'intervallo con Eugenio, questo. È stato bellissimo. Sì, adesso sì. Ritorniamo in trasmissione e torniamo a parlare. Non erano cinque, abbiamo fatto un favore a Roberta, facciamo solo tre. Facciamo tre, se no... Però parla anche il nostro manager. Sì? Sì, ed ecco sì. Il microfono. Ah, sì, sì, perfetto. Così magari... Il numero 5, il suo microfono 5, parlerà anche il nostro manager. Okay. Ok, e allora i tre dischi da portare su un'isola deserta. Che dirti? Io a tuo piacimento, quello che vuoi. Porterei Blue di Joni Mitchell. Adesso ci fermiamo un momento, perché Blue di Joni Mitchell? Perché il mio disco è quello che mi ha cambiato la vita, nel senso musicale, intendo. Un disco meraviglioso. Parliamo del 1971, esattamente. Io non ero neanche un'idea, però poi l'ho scoperto dopo e me ne sono innamorato. Ho trovato questo vinile, l'ho voluto, l'ho ascoltato tutto, divorato. E si tratta di una cantautrice canadese che immagino molti conoscano, rivoluzionato il modo di fare musica all'epoca quando le donne non erano... Ecco, hai detto una cosa giusta, perché questo... assieme a Carole King, Joni Mitchell è stata la prima donna, assieme a Carole King, che ha sdoganato l'universo femminile musicalmente parlando. Poi c'è stata Carly Simon e altre donne. Poi le altre sono venute dopo, ma Carole King e Joni Mitchell sono state le prime in assoluto. Mitchell ha una caratteristica che, a parte la vocalità estremamente originale, la sua capacità di esprimere testi che sono quasi dei diari personali che lei ha avuto il coraggio di aprire e di raccontare in musiche sublimi. Parliamo del 71, quindi la donna, voglio dire, una donna che imbracciava una chitarra aveva un altro pathos rispetto a una donna che oggi imbraccia una chitarra. Certo. Che se ne incontrano migliaia e molte lo fanno molto bene. Certo. All'epoca era raro come fenomeno. Era molto raro, sì. E successivamente lei ha realizzato dischi di portata straordinaria. Nel 79, se non sbaglio, c'è stato Mingus, sì, famoso con Mingus. Herbie Hancock, certo. Mingus, Pastorius e chi ne ha più ne metta, quindi c'era il clou totale di quel periodo e era l'anno di James Taylor, di altri grandissimi, di Crosby. Cioè, dobbiamo sottolineare che lei ha scritto Woodstock, anche se non sì. c'è mai stata Woodstock. Sì, ha scritto Woodstock, che sì. poi Crosby, Stills, Nash & Young hanno portato successo esatto. mondiale, ma Woodstock l'ha scritto John Mitchell. Lei. Esattamente. Ah. Okay. Quindi quello lo portiamo. Certo. Numero due un'altra donna porterei. Bene. Che è Kate Bush. Ah, grandissima Kate Bush. Kate Bush, lei premiata per l'originalità vocale, per la genialità, aiutata da Peter Gabriel e da altri. Larry Klein dovrebbe essere stato, se non sbaglio, il suo primo produttore. Esattamente, adesso sentiamo in sottofondo qualcosa che la fa immortalata. Queste cime tempestose. Sì. Bel pezzo meraviglioso. Esatto, e porterei proprio questo album, che è stato il primo, sì, se non sbaglio, The Kick Inside. È vero. Che è meraviglioso. Meraviglioso. Poi ha fatto tante altre cose, ha sviluppato tanti sì. altri terreni, però... si parte sempre sì, da questo eclettica disco. Anche lei molto, molto sperimentale, sì, eccetera, esattamente eccetera. Il terzo porto il mio perché me lo devo riascoltare, mi pare sia secondo giusto. Me dalla luna un altro sia giusto, che bellissimo, è giustissimo e mi sono tolta il terzo esattamente. Però ce ne sono veramente sì, ce ne sono tante, abbiamo scelto tre per diminuire il discorso, però sì, se ne sarebbero tante. Ma porterei anche Mingus. Anche Mingus, certo. Anche i Beatles porterei. Io come donna porterei anche Tori Amos. Sì, non l'ho citata. C'è stata una fase della mia vita in cui ero assolutamente coinvolta e ascoltavo Tori Amos di continuo, perché ha generato anche lei un mondo, sì, certo. che ispira tanto molte cantautrici italiane anche. E musica contemporanea, sperimentale, questo modo di usare il pianoforte quasi atipico, come fosse sì. uno strumento percussivo. Esatto, che lo è, percussione, che lo è perché comunque uno strumento percussivo, ma lei proprio in modo fisico. È vero, è vero. Quindi sì, anche lei, anche Tori, che la sentiamo adesso, certo. è giusto? Bravissimo. Stiamo nostro regista. Di Butterfly. Adesso tocca a te, Riccardo, metti vicino al microfono, molto vicino, sì. e parli dei tre dischi che vuoi portare su un'isola deserta. Vado anch'io sull'isola sì, deserta. Sì, sempre sull'isola deserta, che non è quella della Simona Ventura, che è un'altra cosa. Questa è la isola di Rockwave. Innanzitutto speriamo di essere su un'isola vicino a Roberta, in modo che Harry me li può mandare con una barchetta i suoi, perché perfetto, va benissimo. Molto anche i suoi. Io porterei una buonissima Janis Joplin per darci un po' di... Qual di Janis Joplin? Con la band o da sola? Come Pearl porteresti? Sì. Pearl, che l'ultimo disco è stato pubblicato postumo praticamente. Sì, riassuntivo poi abbastanza anche di tutta la filosofia sua. Grandissima. E poi mi porterei un De André, perché non mi può Quale mancare. Non al denaro, non all'amore, né al Perfetto. Cielo. Perfetto, Spurriver Docet, l'antologia di Spurriver, sì, di fatta, rivista da lui. E poi una buona donna italiana, cantautrice, diciamo più vicina ai giorni nostri, mi porterei una Cristina Donà, sinceramente. Ah, bene, molto interessante, molto brava Cristina Donà, che farà il disco fra poco. Sì. Dovrebbe uscire con un nuovo album dopo la maternità, si è fermata giustamente. Lei lavora molto, si fa tanti concerti in giro, eccetera. Poi era un'altra grande amica di Robert Wyatt, ha fatto sì. cosette molto interessanti con Robert Wyatt, ma è molto brava Cristina Donà, un personaggio di grande valore. Assolutamente. Decisamente. Vedo che siete preparatissimi, appena uno dice una canzone parte. Ma noi abbiamo un mitico regista, c'è poco da fare. Ok, adesso ci riposiamo, sentiamo un pezzo dall'album, sì, cosa dici? Un brano, che traccia direi... è? La 9, la traccia sbaglio. Numero 9. E dovrebbe essere, io vorrei dire anche il titolo, sì, ma lo dici. Leggo, non so dove lo devo eccolo, leggere. Eccolo là. La ballerina e il clown, che Perfetto. È il pezzo che ti dicevo in cui c'è Pierangelo Negri al violino. Al violino. Rock Wave. Rock Wave. L'onda del rock. L'onda del rock. La ballerina e il clown si devono amare ogni sera. aperte tutte le porte che tira forte il vento e tutta la città sta arrivando e se non pioverà sarà meglio. Che si amano. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Diretta rockwave.altervista.org. Ci potete sentire e vedere. Quindi con Roberta Di Lorenzo e il suo manager Riccardo. Il tuo cognome non me lo ricordo. Campanella. Campanella, perfetto. Parlavamo del primo violino della Scala che ha dato, che ha colorato in modo sublime questo pezzo, voluto da Eugenio, voluto da Roberta, è una cosa meravigliosa. Sì, l'abbiamo appena sentito. Certo, bellissimo, toccante. È stato proprio colorato bene, proprio ci doveva essere. Sì, ci doveva essere, il brano non lo richiedeva all'inizio, poi c'era quel momento in cui, poi chiamandosi la ballerina il clown, esatto. Il clown in questo caso. Il violino ci vuole. Ci voleva, ci era vuole un'entrata un po' esatto. Un po' di circo, in senso positivo. In senso positivo, sì, sì, sì. Parliamo con Riccardo adesso, Riccardo si mette vicino al microfono e parliamo dell'ambiente torinese, se c'è la possibilità agli artisti emergenti come Roberta di fare qualcosa, di suonare dal vivo e non fare le solite cover di Ligabue, di Vasco, di Ligabue, Vasco, Vasco, Ligabue 20 volte. Allora, io stavo dicendo prima, in realtà sono a Torino da pochissimo tempo, da quasi 2 mesi, quindi diciamo che la realtà live non la conosco ancora molto bene, conosco meglio diciamo la realtà di Milano e credo che siano abbastanza similari. Similari, esattamente. E diciamo che le possibilità ci sono, però il lato negativo che io trovo nell'ambiente milanese, quindi probabilmente simile a quello torinese, è che a volte si cerca di autoghettizzare il ghetto. Ho capito. Andare a incanalare le forze molto bene, però senza la possibilità di aprirsi e cercando, quasi appunto chiudendo per proteggere il proprio tipo di musica, e quindi forse questo è un po' il difetto della produzione indipendente italiana. Ha tanta qualità, ma c'è quasi paura che venga ti prendono gli scalfita, spazi scalfita esattamente, esatto, cioè, esatto. Cioè il discorso è che tutti devono fanno il proprio orticello e basta, mentre esatto. All'estero non c'è, è un po' diverso il discorso. Sì, probabilmente c'è più apertura mentale, c'è apertura, per anche generi che non sono di mainstream, esatto. Esattamente, c'è più apertura, c'è più possibilità, c'è un confronto molto, esattamente, gli artisti emergenti di suonare lo stesso, perché se uno è bravo ed emergente non è cioè non è lasciato da parte, non è messo da parte perché è emergente. Perché no? Se uno è bravo può dire la sua, chiaramente. In Italia c'è questo voglia di coltivare, come giustamente tu hai detto, il tuo orticello e basta, è chiusa. Sì. E adesso, visto che ci siamo, ricordiamo l'etichetta, cioè il nome del disco, chiaramente. L'occhio della luna di Roberta Di Lorenzo, uscito il 22 marzo del 2010, quindi da pochissimo. Da pochissimo, produzione F-Sound, come abbiamo detto, di Eugenio Finardi. E distribuzione Egea. La distribuzione, esatto, è Egea. E il disco è a catalogo, quindi se non lo trovate nel negozio lo potete ordinare e arriva in breve tempo. E sarà presto disponibile sulla piattaforma digitale, manca poco e verrà messo online anche su iTunes. Perfetto, ha un sito. Roberta. Il sito di Roberta è robertadilorenzo.it, dove potete trovare anche tutte le date. Le date, poi qualcuno, sì, ne ha vicino, ti ricordi? Sì, sono work in progress. La prima è tra poco, il 26 giugno, sul Lago d'Orta, a Gozzano, in provincia di Novara. Questo è un posto bellissimo, da vedere. Sì, sul lago, molto, molto romantico. Sì, molto romantico. Anche quello, è una contata di posti romantici. E poi ci sono altre date, a Renzano, abbiamo Legnano al Castello, Franciacorta. Ci sono varie date che potete consultare sul sito. Bene, è più quindi preparato ci sta di me sulle date. È giusto che il manager deve essere preparato. Niente. Deve essere preparato. I manager sono sempre preparati. Sì. Ok, adesso suoniamo qualcosa. Sì, cosa suoniamo. Cosa vuoi suonare adesso? Suonerei Corollario. Ah, pezzo bellissimo, un altro dei miei hit del disco. Rock Wave, l'onda del rock. Corollario di attenzioni troppo eccessive perché io possa non dubitare dell'interesse con doppio fine che ti sovrasta. Non puoi mentire se bevi vino, non puoi fuggire dal finestrino. L'auto cammina dentro un motel, dovrai dormire con me, rischiando un'ora o una vita intera. Lo scoprirai stasera. Ti sembra strano che io possa dire quello che penso di te. L'avresti detto che il tuo sorriso non è come quello che avevo in mente. Avevo in mente per te. E adesso parla se c'è qualcosa di cui vuoi parlare. Adesso amami se pensi di saperlo fare. La vita ci fa diffidare, ma è solo colpa di chi da solo non ci sa stare e ha bisogno di chi abbia un cuore migliore in cui rubare un cuore migliore. Un inventario di attenzioni eccessive perché io possa lasciarti comodo qui a riposare sul mio cuscino e sulla mia bocca. Fuma pure se vuoi fumare, che questa notte sta per finire. l'auto già pronta per te. Meglio non farla aspettare, col mio vestito migliore ti verrò a salutare. La vita ci fa diffidare, ma è solo colpa di chi da sola non ci sa stare. E ha bisogno di chi abbia un cuore migliore, in cui rubare un cuore migliore. La vita ti fa diffidare, ma diffidare non è la cosa giusta da fare. Se vuoi dormire con me, se vuoi stare a guardare, per ore ed ore la mia parte migliore. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Devo dire due cose su questo disco, su questo pezzo. L'ho sentito tante volte. Tanto ha un testo molto significativo che fa pensare, che fa riflettere. E secondo, è un musicalmente bellissimo. Mi sono totalmente preso da questo pezzo, l'ho sentito, ripeto, un sacco di volte, l'ho messo su nel programma mio per un mese consecutivo. E folk, sì, però un folk atipico, secondo me. Sì, poi c'è questa un componente testuale piuttosto, che è un testo forte, non, molto forte, cui molti nel hanno senso visto proprio un'invettiva. Sì, un'invettiva, esattamente. Non l'ho detto, però hai detto. Sì, un'invettiva a tutti gli effetti. Poi tratta il tema della diffidenza tra l'uomo e la donna. Certo. Il primo appuntamento in cui lei dice chiaramente quello che pensa. Musicalmente nasce davvero con una semplicità di tre accordi, re, sol, la maggiore, per poi trovare spazio in una risoluzione invece piuttosto originale, magari uno non se l'aspetta, va un po' da altre parti. È un brano di cui io vado particolarmente fiera, ho scritto con convinzione. Anche noi. Con piacere. E poi ho fatto questa considerazione l'altra sera, la voce tua si aggrappa al pezzo, vera e propria, si aggrappa, cioè lo tiene stretto praticamente, non so se sei. Io sì, ho questa impressione. Sì, come se ci fosse questo tentativo di tenere la musica giù, sì, buona, esattamente là dove vorrei dire molto di più, magari anche nel testo, no? Sì, esattamente. Sì, sì. E ho avuto questa impressione io. In caso lo trovo bellissimo. E non so se sia, l'ho detto, l'ho chiesto ad altri musicisti, non so se volutamente la scaletta, i numeri hanno una giustificazione, il brano terzo in questo caso. Ha una giustificazione o è stato fatto a caso? No, è chiaro, tirare giù una scaletta come nel live, anche in un album, è veramente complicato. E molto spesso chi scrive le canzoni non è in grado di cogliere la strategia d'ascolto adatta. Io ho sempre pensato, ascoltando gli album degli altri, che ci fosse una strategia nella disposizione dei pezzi. Probabilmente c'è, ma è piuttosto naturale, nel senso che viene naturale che la mente richieda un certo tipo di brano e musicalità dopo averne ascoltato uno prima. In effetti, dopo Felicità Apparente, che è in quattro, così aperto e largo, un tre quarti di corollario lo chiamava, piuttosto direi che ci stava bene. Dopo ce n'è un altro in tre, quindi forse cade la mia teoria. È vero anche che io scrivo molto in tre. Io adoro molto il tempo valzerato. Ecco, devi terzinato. Io ho capito, però mica tutti hanno capito in tre che cosa significa. Tre quarti, semplicemente, ecco, pam para para pam para para pam, piuttosto che il due quarti o il quattro quarti, che è un tempo pari. Abbiamo spiegato in diretta, abbiamo fatto una teoria. Sì, ma poi è proprio spicciola. Sì, spicciola, abbiamo fatto una teoria musicale spicciola. Un altro appuntamento in un'ora, parliamo di tre quarti, di quattro quarti. Cioè. No, sì. ma è positivo anche questo, perché la gente deve sapere che dietro un pezzo c'è molta fatica, c'è molta tensione, c'è molto lavoro, è poco da fare. Non è tanto tutto semplice. È bello vedere un disco nella discoteca, nei negozi di dischi, tutto pronto, ben costruito, celofanato, o se no col vinile che si apriva, sai, come i vinili una volta, con l'odore di vinile, una cosa un'altra. Adesso ci sono i CD, ma questo è fatto bene, però è una bella copertina, un bel libretto. Citiamo chi l'ha fatto la copertina e il libretto. Sì, Patrizia Convertino dello studio. Abbiamo detto, poi i testi sono tutti tuoi. I testi sono tutti miei, le musiche mie, arrangiate da me, Eugenio e altri che ho citato prima. E abbiamo detto tutto, ci sono, ti arrivano i messaggi su no sì ma è un messaggio e ti riconoscete questa roba qua. Non lo voglio sapere esattamente così vostro. E abbiamo detto tutto di questo album, cioè in realtà potremmo dire ancora sì, molto. Ma io sono contenta del modo in cui le persone hanno lavorato con me. Quindi nei ringraziamenti, infatti, faccio proprio una lunga lista di ringraziamenti. Ho visto sì, avrei veramente fatto prima a scrivere ringrazio tutti piuttosto che appunto fare i nomi, perché poi diventano molti. Però c'è stato un bel lavoro di squadra, quindi era il caso di ringraziare. Certamente. Bene, sono 23:26. Adesso che scaletta abbiamo? Ah, c'è un brano ancora che possiamo mandare. Sì, possiamo ancora un brano che è la numero 6. La traccia numero 6, che si intitola il titolo e il singolo. Singolo. Ipotetico, che si chiama Antigone. Perfetto. Di cui poi magari diciamo qualcosa. Rock Wave, l'onda del rock. Non sento più il vento e sulle guance l'odore della terra, neanche il tuo sostegno, sangue del mio sangue, tu che sei una donna e anche una sorella, occhi come i miei, ma molto meno sanguigni, sento addosso un tradimento. La speranza di non essere sola a combattere per uscire fuori da qui, da ciò che ci consuma. È una legge che mi governa, che non ha morale e non mi appartiene, che mi vuol fare male. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eccoci qua, questo era Antigone, il presunto singolo, se, sì. Se esiste ancora un singolo. Infatti, guarda. Ma esiste ancora il singolo? Ma secondo me non esiste, sì. Ma qualcuno esiste, ma, sì. Sì. Ma insomma, dici, ma... qualcosa esiste. Però, poi chi lo decreta? Lo decreta il pubblico presunto tale, anche se non è per niente vero. Una volta c'erano i singoli, io ricordo, i 45 giri, fino a qualche anno fa. Mm-hmm. Poi, dalle classifiche, mitico giornale italiano, TV Sorrisi e Canzoni, ha levato via i singoli e da quel giorno i singoli sono spariti. Ma diciamo che è anche un pretesto per poi far parlare di un artista che ha fatto quella canzone. Questo è vero, singolo. Sì. Poi ha delle regole, comunque entro il minuto deve partire il ritornello, non ci sono tutte quelle cose che non esiste a Rock Wave. Le regole non esistono a Rock Wave. No. No, assolutamente, non c'è nessuna stroncatura dei però, pezzi. Però Antigone è un brano di cui io vado particolarmente fiera, perché è stato scritto con Eugenio Finardi a quattro mani, la parte musicale. E l'idea anche, nel senso che il testo poi l'ho scritto io, ho elaborato l'immagine di Antigone, ma l'idea di rappresentare una figura di donna forte e appunto importante, poi sappiamo, stiamo parlando della tragedia di Sofocle, quindi io ho rubato il titolo per approfittare, no, di questa tematica. E l'idea, chiaramente stiamo parlando di una delle donne storicamente riconosciute come la ribelle per antonomasia, le prime ribelli esattamente. Assolutamente capace di imporre la propria etica personale, i propri principi morali contro, rispetto a uno Stato che invece avrebbe voluto tutt'altro. Certo. E quindi è una legge più grande di lei. È assolutamente attuale, no? Questo sentirsi spesso stretti in contesti e situazioni politiche, sociali, di coppia, no? di qualunque natura. Sì, perché capita, nonostante che siamo nel 2010, qualche volta, non dico in Italia, però in qualche altro posto, la donna non è ancora considerata come tale, no? Come persona, è considerata purtroppo qualche volta meno di persona, e questo non sì, è assolutamente giusto. Sì, ci sono popoli molto più sfortunati di noi. Certo. Ma la questione non riguarda solo le donne. No, riguarda in generale. Riguarda di tutto. Proprio l'uomo, l'uomo. Di tutto, sì, esattamente. Sì. E quindi spostiamo l'Antigone al maschile anche, direi. Giustamente, anche se questo è un disco, come ha detto Eugenio, giustamente, in cui l'universo femminile viene messo in primo piano, in risalto, certo. In primo piano, ed è giusto che sia così, lo canta una donna. Sì, assolutamente. E ci sono altri nomi che vengono citati, che sono proprio titoli dell'album, come Filomena, per esempio. Chiaro. Che tratta di una tematica, in realtà la musica è assolutamente fresca, leggera, ed è uno dei brani che ti dicevo che risale al 2002, quindi un po' in là, che è stato rivisitato in una chiave frizzante rispetto al resto dell'album, che è piuttosto notturno e un po' così intimista. Filomena è un po' più leggero, e io ho voluto rappresentare questa diatriba, questo gioco, guerra-gioco tra le parti femminili, no? Dove c'è la parte infantile, la bambina che vuole salire sull'albero e da ribelle anche lei, non sottostare a una serie di forme prestabilite invece della convenzione della donna invece adulta, che dall'altra parte è buona, tranquilla, che sta lì e giudica addirittura Filomena che è sull'albero, cioè scendi dall'albero, fai la brava, ecco. Tutto riconduce al gioco, che è un po' il gioco sulla musica, il gioco nella vita. Esatto, che non significa prendere le cose poco sul serio, ma giocare seriamente, oppure essere seri giocando un po'. La possiamo girare un po'. Certo, la vogliamo sentire direttamente dal vivo, lo vuoi suonare? Sì, è una versione molto diversa rispetto all'album, ma io ve la suono volentieri. Perfetto. Rock Wave, l'onda del rock. Filomena si consola e assaggia il tempo. Ciliegia dopo ciliegia si innamora. dentro casa sua, in un quadro e tra le pagine di un libro, su un tappeto e i vestiti di una donna che la chiama. Scendi dall'albero, scendi, io salirò solo per venire a riprendere te. Scendi dall'albero, scendi, io salirò. Se salirò avrò una vertigine ed un serio pericolo. Filomena si innamora, le sembra un sogno. Un attimo di gioia, esce fuori, apre la porta e poi supera la donna che la chiama. Scendi dall'albero, scendi, io salirò solo per venire a riprendere. Avrò una vertigine. Filomena sorride con gli occhi, o forse sta ridendo di lei. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo nome di donna, questa storia di Filomena. Che mi viene in mente, scusa, ne approfitto adesso. So che ho ricevuto una telefonata da parte di una donna che si chiama Angela da Torino, per cui la volevo ringraziare e salutare. Benissimo, ci salutiamo Angela da Torino che ci ha sentito, ci sente attraverso internet, sta sentendo il concerto e sta vedendo probabilmente anche mentre suoni, chiaramente. Quindi una voce, un ritratto femminile di Filomena. E ho letto anche, non so se te l'avevo chiesto, mi pare di no, che hai studiato anche canto jazz. Sì, c'è stata una parentesi anche lì, un approccio allo stile abbandonato. Subito? No, non subito. Ma fa parte dello studio, nel senso che... Hai studiato il DAMS anche? Ho studiato il DAMS, indirizzo musicale, quindi ho fatto un po' di esami legati alla storia della musica. Tra l'altro, riscoprendo anche qui il caso della vita, un mio professore, Fabri, sì. Con il quale io ho dato un esame di storia della musica, ho scoperto che era uno dei musicisti che faceva parte degli Stormy Six, gruppo storico Claudio Rocchi, in cui c'era anche Eugenio Finardi. Certo, quindi sì. C'è stato un detto, aspetta un attimo, cosa sta succedendo, tutte queste coincidenze. Stormy Six è un grande gruppo. Stormy Six, esatto. Sì. Il gruppo milanese, certo. Che tra l'altro 2 anni fa c'è stato una reunion. Una reunion, sì, esatto, del gruppo, e io ero lì, sul palco c'era Eugenio Finardi alle tastiere, perché pare che lì Eugenio Finardi suonasse le tastiere, sì, non ricordo bene, e c'era anche anche lui, Fabri, quindi c'è stato un attimo. Sì, perché l'inizio di quegli anni importanti c'era Eugenio Finardi, c'è la crema della gioventù milanese, c'era Finardi, Camerini, c'era Claudio Rocchi, sì, che faceva parte anche lui di Sommi Six all'inizio di carriera, sì, poi se n'è andato a fare cose un po' diverse. E poi, visto che stiamo citando una serie di persone, sai, quando ti ho detto in privato mi ricordi una persona, sì, Marco Andrioletti, che è stato il direttore artistico del gruppo vocale in cui ho lavorato per un po' di anni. Quattro anni, e visto che mi stai chiedendo un po' di passato, appunto, chissà, non penso che mi stiano ascoltando, non però si sa mai, qualora fosse. Li saluterei molto volentieri, perché quella è stata un'esperienza che rifarei assolutamente. Era un gruppo vocale di alto valore, con cui abbiamo realizzato un disco tutto rinascimentale a cappella, quindi senza strumenti ma solo con armonizzazioni vocali, ed è stata un'esperienza di crescita direi notevole. Hai avuto dei riconoscimenti anche internazionali? Sì, anche internazionali. In Italia abbiamo fatto dei concorsi. E il bello della filosofia di quel gruppo era appunto lo spaziare da un genere all'altro, anche in lingue come, non so, spagnolo antico, tedesco antico, latino, per cui c'è stata una bella gavetta anche lì. Decisamente roba molto interessante. Poi ho letto sempre questo gruppo, sì, ha fatto delle cose molto interessanti, si è ricevuto dei premi internazionali, quindi è una cosa molto positiva, sì, decisamente. E tu mi ricordi Marco Andrioletti, per dire. Benissimo, questo è positivo. 23:42, quasi 42, si manca pochi secondi. Sì. Facciamo sentire Circe dal disco, sì, stavolta, così quel pezzo che ha fatto portare Eugenio Finardi a produrre immediatamente Roberto Di Lorenzo. Sì, che traccia è Circe, vediamo. È la numero 10. È la numero 10, è sempre una figura femminile, Circe, sì, chiaramente. Un po' particolare Circe, un po', non dico, un po' tenebrosa, posso dire questo? Sì, perché tra la mangia uomini e invece la fragile donna che ha subito e che quindi probabilmente si sta vendicando di qualcosa, ma in modo triste. È chiaramente così. Rock Wave, l'onda del rock. Mi hanno fatto molto male e adesso faccio male anch'io. Scopritore di orizzonti, bello sguardo e spalle di animale, il tuo odore mi appartiene, per questo ti catturerò. Io conosco il sentimento, ma vivo distinto e possiedo un cavallo ed un coltello, guardo in faccia il sole vivo nel silenzio e di notte mi addormento sotto i fuochi delle stelle, come la pioggia lieve, come gli inverni che non passano mai, non è dalle sirene che discendo, lo sai. L'uomo che amo è lo stesso uomo che scappa, lui non mi ama, ma almeno qualcuno mi scalda tra i suoi movimenti. Sabbia nel sole e uno strano veleno nel cuore. Io di notte li trasformo, questi uomini onesti che mi guardano e che mi girano attorno, ma la solitudine rimane e non esiste magia che ponga fine al silenzio che c'è. Come la pioggia lieve, come gli inverni che non passano mai, non è dalle sirene che discendo e lo sai. L'uomo che amo è lo stesso uomo che scappa. Nel sole è uno strano veleno nel cuore. Blu Radio. Dai colore alle tue frequenze. Blu Radio. Blu Radio. SMS 346 2320 033. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, abbiamo sentito questo pezzo Circe che ha fatto impazzire, musicalmente parlando, Eugenio Finardi. Attraverso questo pezzo Roberta ha conosciuto Finardi, gli ha fatto un'audizione, gli ha detto di sì, eccetera eccetera eccetera, e siamo arrivati alla incisione di questo ottimo disco, che sarà, ci sarà un prossimo, si spera, sempre con Eugenio. Sì. Bene, è già pronto? No. No, nel senso che poi non finito questo, assolutamente bisogna... Bisogna continuare. Sì, ma non è più, non è un obbligo, è proprio una necessità. Certo, ma... E io sto scrivendo molto, adesso si tratta di selezionarne altre tracce, e poi mi sto rendendo conto che anche la scrittura cambia. Certo. Sta diventando qualcos'altro, anche per via di contaminazioni, nuovi ascolti, o comunque l'esperienza con Eugenio appunto ha generato un altro tipo di attenzione nei confronti, e poi comunque si arriva più preparati al secondo disco, si arriva dal primo, quindi si sa quello che non si vuole, si evita di perdere tempo, e in più magari ci si toglie degli sfizi che nel primo non si è riusciti a... Una cosa devo chiederti, quando hai inciso di prima getto, la prima take, oppure ci sono state take diverse? Ma per mia sorpresa ci sono state poche take. Sì, non so come mai, ma devo dire positiva. Che positiva, sì. Più che altro per via di manie di perfezionismo, c'era questa tendenza mia di rifarne di più per cercare sempre quella migliore. E poi, avendo un direttore d'orchestra dall'altra parte come lui, c'era questa attenta scelta nella take migliore. Si è cercato di evitare troppi tagli, nel senso, come nel film, la pellicola non è stata tagliata troppe volte. O ricucita, bensì lasciata andare. Per fare in modo che il brano scorresse il più fluido possibile, anche perché poi è difficile rientrare nel brano, nella parte, da una take magari che non appartiene allo stesso giorno ma alla sera del giorno dopo, quindi hai uno spirito e una voce diversa, quindi l'attenzione a questo è stata particolare. Dove è stato inciso il disco? È stato inciso alle Officine Meccaniche di Pagani. Ah, quindi Pagani. A Milano, sì. Grande studio di registrazione. Sì, un posto che... Favoloso. Sì, è un parco della musica, dove c'è lui ad accogliere, ma c'è una serie di tecnici disponibili. Di grande valore. Di grande valore. Io in quel ricordo, questo album ci ha tenuto in studio praticamente poco rispetto a quello che è il tempo naturale di un album, disco. Circa neanche un anno. Per cui ci sono state una serie di coincidenze piacevoli all'interno delle officine che orbitavano in quell'ambiente quando io ero lì a registrare. Ricordi l'anno scorso l'episodio spiacevole del terremoto? Sì, certo. Per cui però si registrava il singolo Domani, Domani, a cui partecipavano tutti i musicisti, artisti italiani, tutte le voci importanti, e c'era anche Eugenio Finardi. Certo. Ed era proprio il giorno in cui io stavo mixando uno dei brani per chiudere tutto, quindi mi trovavo in un ambiente assolutamente ricco, no? Bellissimo, dove fantastico. C'era Giovanotti da una parte, sì, poi passava così, c'erano tutti, esattamente. Laura Pausini, ho avuto modo addirittura di parlare con Carmen Consoli, con Vecchioni, e quindi c'è stato un bellissimo, grazie anche a Eugenio che li conosceva, quindi ha fatto conosceva da tramite, e quindi che dirti, più esperienza allora, di questa, un'esperienza meravigliosa, sì, devo dire, ovviamente. 23, 50 e 52, quasi 51, adesso abbiamo deciso di concludere, di andare verso la mezzanotte suonando qualcosa. Come primo pezzo per andare verso la mezzanotte, cosa sentiamo adesso, Roberta? Io vi suonerei qualcosa di soft, perché stiamo andando verso la mezzanotte. Sì, bene. Però siccome in re maggiore ne ho fatti due in re maggiore, ne faccio un altro che è in sol maggiore, che benissimo. È un po' più tempra. Molto bene. È una strategia armonica. Ok. Faccia. Rock Wave, l'onda del rock. Le mie parole ti feriranno, amore, perché il mio cielo è spietato e raramente sereno, perché per stare in piedi a volte premo sull'acceleratore. Le mie parole ti lasceranno da solo, come un ricordo caduto, come la terra che frana sul nostro misero amore. Senza voltarmi ti ritroverò, senza frenare la lingua, il gesto e l'intenzione. Senza frenare la lingua, il gesto e l'intenzione. Salvami da questa faccia e dal sorriso che fa. Salvami da questa faccia così diversa da me. Lei non lo sa. Salvami da questa faccia, da tutti gli sguardi che fa, che si appropria del mio nome. Salvami da questa maschera. Con verbi imperativi e non impegnativi traccerò il confine che lo sguardo non ha. Ti lascerò guardare sotto la pelle di cuoio, dietro al profilo scuro di questa mia faccia. Senza frenare la lingua, il gesto e l'intenzione. Senza frenare la lingua, il gesto e l'intenzione. Salvami da questa faccia e dal sorriso che fa. Salvami da questa faccia così diversa da me. Lei non lo sa. Salvami da questa faccia, da tutti gli sguardi che fa, che sia propria del mio nome. Salvami da questa maschera. E la semplicità torna nell'aria, stampata sulla bocca c'è la mia felicità. Questa felicità che poi mi libera da questa maschera. Salvami da questa faccia e dal sorriso che fa. Salvami da questa faccia così diversa da me. Lei non lo sa. Salvami da questa faccia, da tutti gli sguardi che fa, che si appropria del mio nome. Salvami da questa maschera. Salvami, salvami, perché si appropria del mio nome. Salvami da questa maschera. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Purtroppo abbiamo finito. Ci siamo quasi verso. Stiamo andando verso la fine. È stato 2 ore bellissime. Quando le cose sono belle, scorrono. Esattamente. È una bella cavalcata con la tua musica, con questo nuovo album, primo tuo album. Spero ce ne saranno altri. Ci saranno tante altre cose positive per te. È stato molto interessante, molto bello, perché hai suonato dal vivo. Il vivo è una cosa meravigliosa. E riprendi i pezzi acusticamente parlando, è una bella esperienza. Assolutamente. Cosa dici? Ed è anche bello trovare radio che permettono questo. Grazie. Radio libera, nel radio libera vero. Veramente, come diceva ben grande tanto Eugenio. Per citare qualcuno, noi noto. Sì, però comunque sono spazi importanti, e non solo appunto dare lanciare il brano suonato dal disco, ma proprio questo momento. Anche imperfetto, un po' così live. Certamente il live non deve essere perfetto, deve essere anche imperfetto. Fatto, come diceva il buon Bob Dylan, quando va sul palco, l'imperfezione fa parte del musicista, secondo me. Poi questa formula discorsiva è molto bella. Bene, ti ringrazio. Questo spazio che dai. Adesso citiamo una cosa, Riccardo adesso prende il microfono e incidi un'altra volta il titolo del disco, l'etichetta e le date di Roberto. Sì, il disco L'Occhio della Luna è uscito il 22 marzo per etichette F Sounds con distribuzione Egea. Distribuzione Egea con la produzione di Riser e Roberta Di Lorenzo. Il sito robertadilorenzo.it, anche myspace.com/robertadilorenzo e anche Facebook ovviamente Roberta Di Lorenzo. Certo, poi alcune date se devi ricordare. Alcune date, certo, la prossima più vicina a noi è a Lago d'Orta in Piemonte, in provincia di Novara, il 26 giugno e poi altra, Renzano il 30 luglio, Castello di Legnano 7 agosto e così via, tutta l'estate. Grazie a tutti, grazie al nostro mitico regista Michele Toson che ha dato l'impulso a tutto quanto. Grazie. Grazie al Riccardo Campanella che è il manager, grazie a Roberta Di Lorenzo che ha partecipato, una roba meravigliosa, che ha condotto questo suo concerto live. Qualcosa ci saluti? Lascerei con un brano, ero indecisa tra due, ma poi ne devo fare uno. No, puoi farne anche due, vuoi fare uno solo? Possiamo fare uno dietro l'altro, come vuoi te. No, vi lascerei con Luna. Benissimo, con Luna. Luna, che è un nome che richiama il titolo dell'album ed è per me stato una scrittura legata al ritorno a casa, quindi un po' nostalgica, ma piuttosto notturna, vista l'ora in corso, quasi mezzanotte. Mi sembra. Sì, mancano 2 minuti a mezzanotte. Sì, mi sembra giusto lasciarvi così. Benissimo. Prossima settimana, mercoledì prossimo, ci saranno i 12 Corde, che è un gruppo di Reggio Emilia. Grazie e buonanotte a tutti. Rock Wave. L'onda del rock. È già notte, è già riposo. Ai confini del cielo c'è una lieta figura che mi guarda ed io la guardo, e se si lascia guardare deve essere la luna. Guardo fuori e mi consolo, essere un posto comodo come un suono, da cui sfiorare l'intoccabile oro di cui è fatta la luna. Luna, stella maestra, stella diversa, bella da far voltare il mondo. E se non torno è per non soffrire, per non pensare a cos'ero, a cosa volevo guardandoti. Notte e già riposo ai confini del cielo, c'è una lieta figura, dopo l'amore altre simili cose, sulla linea retta del mare si posa e si riposa il cuore. Fondo tra le ombre di questo mondo che dorme, e tra le ombre ritaglio il mio gesto di luce. Sembra un miracolo. Luna, stella maestra, stella diversa, bella da far voltare il mondo. E se non torno è per non soffrire, per non pensare a cos'ero, a cosa volevo guardandoti. Luna, stella maestra, bella da far voltare il mondo, ti riconosco da qualunque posto ormai. Blu Radio, Rock Wave, l'onda del rock.